andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto. Allora, ciao. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sono Cruciani e Parenzo dalla Zanzara. Ah, per quel cesso di trasmissione? Ciao Cruciani. Allora Parenzo, io non riesco ancora a farmi una ragione. È vero che è il Vaticano, e non è che uno si può aspettare dal Vaticano una posizione diversa da quella che ha preso sulla vicenda di questa insegnante americana, malata terminale di cancro, che alla fine, diciamo la verità, si è tolta la vita, no? Uno non si può aspettare dal Vaticano una grande apertura. Ma dico, non c'è bisogno di intervenire su ogni cosa, no? Si può anche lasciare. Si conosce la posizione del Vaticano, che è contraria all'eutanasia, eccetera. Che bisogno c'è di tornare? Ma se uno non può disporre della propria vita, neppure quando questa vita ti distrugge, si autodistrugge, non c'è nemmeno una possibilità, dico, nemmeno una possibilità, perché se no si tratta di malati terminali già condannati. Dicono suicidarci è una cosa cattiva e dire no alla propria vita, ma quale vita? Quale vita? La voglio dire tutta, Parenzo. È dignitosissimo, è dignitosissimo togliersi la vita, dignitosissimo. C'è un piccolo caso a Bologna e dintorni di un campo rom dove alcuni rom hanno picchiato. Domani sarò lì domattina. Picchiato una consigliera della Lega, una leghista. No, picchiato no. Beh, loro dicono picchiato. Domani sarò lì. Uno potrebbe anche rispondere però, sti cazzi, hashtag no? Sti cazzi. Sì, no, no, ma appunto, no, se, no, ma per dire, no, ma siccome noi no, lo devo dire, domani no. Sono vabbè, ripeto, rom a Bologna. Apriamo l'hashtag sti cazzi. Questa leghista che si chiama Lucia Bergonzoni, sì, che incontrerò domani, di Borgonzoni, dice di essere stata picchiata da una donna rom. Io ho visto le immagini, sì. Certo, non è il massimo dell'eleganza questa signora rom, gli dice bastarda eccetera. Questa era andata a fare una piccola ispezione in un campo che è totalmente illegale, lo vogliamo ricordare, totalmente illegale. In ogni caso, sì, un po' di spinta, adesso poi non esageriamo, non è che l'ha picchiata, non l'ha picchiata. Comunque, sentiamo. No, lei si la vuole farsi il fatto natale. Dai, va fuori. Va fuori. Fuori. Sì, provo che fai bella faccia. No, non la tocco niente, aspetta. Beh, difendi come al solito. Difendi, c'è, avanti, difendi. C'è tensione, amico mio, quel campo rom. I tuoi amici rom. Amici, amici, difendili, no. Se domani hai coraggio. Domani andrò a guardare sul posto Corridaie, quello che chi è successo. Se ne frega. Dimmi che cosa ne pensi del fatto che questa donna rom ha, come dire, schiaffeggiato, si sente anche il rumore, dice bastardo, insomma, spintona una signora, una consigliera che era andata lì, una un politico comunale di Bologna che è andata della Lega lì a fare il suo mestiere. Io l'ho sentita oggi la consigliera mestiere. Comunale è andata a fare una visita, è stata mandata via in malo modo. Sì. C'è da dire, lei mi ha detto, lei stessa, questa consigliera della Lega mi ha detto, mi hanno riconosciuto perché io comunque sono tanti anni che chiedo la chiusura di quel campo e questi si sono arrabbiati. E allora? Ci vuole il mediatore culturale lì. Ma vai a fare in culo, tu hai il mediatore culturale. Lo sapevo. Ci vuole il mediatore culturale, sì. Bisogna capire. Poi andrò lì, ma non so di questo campo nulla. Vabbè. Voglio andare a vedere con i miei occhi. Salvini che dice: è non date una lira al semaforo. Io non ho mai dato un euro al semaforo, manco un centesimo. Ma questo tu hai mai questo. Dato soldi al semaforo? Mi è capitato qualche volta, sì, assolutamente. Io la maggior parte delle volte dico: no, e se insisto. Tu metti la quarta li vedi mai. Che puliscono il vetro. Mai violenza con nessuno. Mai. Però, mai. Uno spiccetto, sai, mai quelli che ti mai vendono dato, mai dato. No, ma sai ad esempio quelli che ti vendono i fazzoletti, ma quelli che ti puliscono il vetro, se qualcuno sai questi vogliono fare dei lavori, no, tutto ma sommato, mi incazzo quando qualcuno accanto a me o dietro dice no, ma dai, diamogli qualche centesimo quasi. Io mi incazzo come una bestia e dico non provare a farlo, sennò ti mando via dalla macchina, ti faccio uscire dalla macchina. Beh, è democratico, si alimenta tutta una Questi qui vogliono lavorare, però si lavora in maniera legale. Ma non c'è lavoro, questi qui, ma scusa, non lavorano. Ma non vogliono, spesso non vogliono lavorare. Spesso non vogliono lavorare. Però anche tu sei di un cinico. Uno che sta tutto il giorno al semaforo, magari sotto il sole a luglio e agosto, sotto ma la pioggia e le intemperie. Sentiamo Salvini. Non date una lira al semaforo, perché non va al poveretto, ma va alla malavita. Questo non si fa del bene, anzi si fa del male a quelle persone. Però ragazzi, io dico una cosa, no? Adesso si capisce il motivo per cui Salvini sale nei sondaggi, perché dice delle parole d'ordine, delle parole molto chiare. Dice: non date una lira ai semafori. E questa cosa qui è condivisa dal 99,9% degli italiani. C'è poco da fare adesso. Sì, ma va risolto dopo la questione. Ma sì, ma adesso questa è la comunicazione. Cioè, sto parlando della comunicazione. Ma è la comunicazione, ho capito? Ma ci sarà un problema quello, vabbè. No? E arriva Parenzo a dire le stronzate. No, ma amici che. Ma Parenzo non facesse lo stronzo, perché adesso mi ha rotto i coglioni pure lui. Un altro, stava mia, dai. L'elenco proprio. Il signor Moncler, che si chiama Ruffini, l'italiano Ruffini, sta succedendo un casino sulla vicenda di Moncler e di Report. Mamma mia, come lottano le voci. A un certo punto aveva detto, a parte che era stato elogiato da Renzi, vabbè, ma questo è normale, come grande esempio italiano. Imprenditore. Ha detto: vorrei che si dicesse Moncler e non Piumino. Questo è eccezionale, questo è eccezionale. Ormai, dopo quello che è successo, potrebbe anche essere una cosa antica, passata, superata. Però non si sa mai, perché poi le aziende, dal punto di vista dell'immagine, riescono a recuperare ogni tanto. Senta, lei ha detto: io vorrei che invece di Piumino un giorno si dicesse Moncler, come quando si dice Bic invece di penna. Ha esagerato o lo credo? No, esagerato, non ci sono ancora arrivato, spero un giorno di arrivarci. No, poi dice: compriamo Moncler, anche se di un'altra marca, credo che sia raggiunto. Posso dire una cosa su questa vicenda che farà incazzare un sacco di gente? Sicuramente. A me del modo in cui vengono spiumate le oche non me ne frega una mazza. Te lo dico in maniera molto semplice. Perché non dobbiamo essere ipocriti. A me del modo in cui vengono spiumate le oche non me ne frega nulla. Perché altrimenti dovremmo incazzarci già da tempo. A parte che tutte le oche alla fine vanno a morire perché ce le mangiamo. In qualche modo, di riffo o di raffa ce le mangiamo. No, non è che sono animali da compagnia, sono oche che sono allevate. Ma cosa c'entra? Ma scusa, ma l'hai visto in quel filmato come si fa? Ma il foie certo, gras o no? Hai mangiato il foie gras ogni tanto o no? Sì, ti piace il foie gras? Ma ti assolutamente piace? Sì, e allora non è che puoi protestare indietro. Su come ma vengono non è vero, trattate ma le oche. No, non ma puoi lì protestare. La questione è diversa, però non è diversa. Ne parleremo magari, però. Esatto, appunto. No, ne parliamo subito con uno che è arrabbiato con la Gabanelli. No, con le oche, come fai a essere arrabbiato? Non lo so, magari sai, qui in questo caravanserraglio può saltare fuori di tutto, anche qualcuno che si arrabbia con le oche in questo caravanserraglio. Alessandro Meluzzi, buonasera. Eccomi Cruciani. Allora, io sono molto arrabbiato con la Gabanelli. Perché? Sono anche un po' arrabbiato con la Rai. Addirittura. Mi trovo sorprendente che in una trasmissione di servizio pubblico, di presunto servizio pubblico, si producano degli effetti tali per cui oggi una delle poche aziende floride rimaste in Italia perde in borsa 150 milioni di euro del suo capitale sociale. In una situazione in cui, tra l'altro, la vicenda delle oche è marginale, perché neanche la Gabanelli ha osato dire che quelle piume spiumate dalle oche finiscono nei piumini Moncler. Intendiamoci innanzitutto su una cosa. Finiscono Moncler, aspetta, me ne frego io di piumini Moncler, perché io nella mia vita ho mai avuto Moncler, ma non solo perché porto l'eschimo ancora, ma perché io sono allergico alla piuma. E poi col mio fisico, col mio Moncler sarei sembrato l'omino Michelin o Babbo Natale. Scusa, ma tu spenderesti, che ne so, 700, 800, 900, 1000 euro per non un piumino? Mi farebbe venire raffreddore da fieno la prima d'oca, quindi non lo sarei in ogni caso. Però io dico che. Non posso dire anche che per me è da coglioni. Io non sono italiano, sono incazzato perché una delle poche aziende che produce profitti in Italia abbia perso 150 milioni di euro per un artificio retorico, cioè mettere prima un servizio sulle oche e poi il servizio sui piumini Moncler. Non solo. No, ma il tema non è questo, Meluzzi. Però, scusami. Non è così. Secondo te, caro Meluzzi, amico mio, non è questo il tema. Secondo te la Gabanelli che cosa c'è? Cosa rappresenta la Gabanelli? Allora, io non so cosa rappresenta la Gabanelli. Io so che la Gabanelli rappresenta qualcosa che mi fa molto arrabbiare. Ed è la stessa per la quale un'altra grande azienda italiana, che si chiama Finmeccanica, dopo una serie di inchieste, prima giornalistiche e poi giudiziarie, che sono finiti in una bolla di sapone, ci abbia messo nelle condizioni oggi non solo di non poter più vendere un elicottero della busta in giro per il mondo per delle presunte tangenti pagate in India, ma di renderci non credibili in tutto il mondo, rovinando definitivamente le nostre esportazioni in un settore però strategico. Scusa, che cos'è che non va? Un presunto inno alla legalità. Però scusami, Alessandro, Alessandro, che cos'è che non va di quell'inchiesta lì? Ovviamente ci saranno delle cause, vedremo. L'inchiesta sulle oche, come ripeto, intanto questa storia delle oche è una storia che va ricondotta a sue dimensioni, perché oltre che prendersela con la Moncler, ha voluto prendersi con i piumini che si vendono all'IKEA, o i piumini danesi che usano in tutti gli alberghi, o i piumini d'oca che usano Canti Decubito nell'RSA per anziani, o il patè o metà della cucina francese che mangiamo tutti. Quando si estrae una parte dal tutto si fa una. Però lì si violano delle norme europee sul più spiumaggio, là, come cazzo si chiama? Come lì vanno a finire la Moncler? Cioè non c'è neanche la Gabanelli l'ha avuto il caso. Cosa lì si chiama paratassi logica, cioè mettere una cosa dietro l'altra. Se tu fai un servizio dove fai vedere, che ne so, gli spacciatori di eroina nella piazza sotto casa mia dove ho lo studio, dopodiché fai un servizio sul mio studio, è chiaro che questo vuole significare che io ho qualche cosa a che vedere, per esempio. No, ma scusami Meluzzi, il c'è tema un elemento di porcata. Un elemento di porcata, a te la Gabanelli fa schifo, Meluzzi. Ma io non uso queste parole, dico che questa è una porcata giornalistica, è una porcata informativa, è un grave danno all'economia del paese, è un grave danno all'occupazione e spinge quelle poche aziende che sono rimaste in Italia ad andarsene da un paese in cui una televisione di servizio pubblico attacca in maniera scangherata e proditoria una delle poche aziende che funzionano nel paese. Un attimo solo, fermi tutti un attimo, ragazzi. Meluzzi ha detto una cosa molto chiara: una televisione del servizio pubblico, un canale del servizio pubblico ha attaccato frontalmente, in maniera subdola, dice lui, in maniera nemmeno troppo documentata, poi lo vedremo naturalmente, una grande azienda italiana, facendole perdere un sacco di soldi. Siete la spazzatura radiofonica italiana. Siete proprio una cosa abominevole, siete una merda proprio. Allora, c'è da registrare che un economista importante che si chiama Giulio Sapelli, come lo storico dell'economia, attacca Report e dice: contro la Moncler, contro un'azienda italiana, c'è stato un terribile linciaggio, e più o meno usa le parole che sta usando in modo diverso. Ha parlato di attacco personale, certo. Che dici, Meluzzi? Persona di buon senso non potrebbe che usarle. Cioè, in un paese che ha ormai le teste al culo, in cui le aziende competitive che reggono sul mercato senza provvigioni pubbliche si contano sulla punta delle dita, in cui tutti se ne stanno andando e in cui qualche marchio rimane in questo disgraziato paese, far perdere 150 milioni di euro alla Moncler per un servizio fondamentalmente cazzioso per Però se è vero che i piumini dimostrare in tribunale che quelle piume strappate a quelle occhie sono finite dentro i piumini Moncler, perché sennò questa giusta posizione, questa parte vabbè, lasciamo perdere la paradassi logica, però mettere una cosa di fianco all'altra invece che a causa dell'altra, questa è una cosa che in tribunale solo un'obiezione, Meluzzi. Se tu nel merito, se tu certifichi che la carne che mangi è stata prodotta in Italia ed è allevata la vacca con mangimi italiani, lo certifichi e lo scrivi nella filiera alimentare e poi si scopre che non è così, ci sono delle norme viva Dio. Riguardo agli alimentari. Ma è la stessa cosa nella ad andare nelle macellerie halal. Ma nel merito non so se abbia come vengono macellati gli italiani. La grande giornalista Milena Gabanelli di andare nelle macellerie islamiche per servizio in diretta su come vengono macellati gli animali nelle macellerie islamiche. No. Il problema è che se tu dici che quel piumino è fatto animal friendly. Aspetta, ragazzi. Meluzzi non si sente, si sente poco. Fermati un attimo, sennò è un casino come al solito. Alessandro, se ne esce viva. No, cioè non ho capito. Cioè, che è sto collegamento, ragazzi? Allora, siccome si parlava di protezione degli animali, io dico: suggeriamo un grande tema a Milena Gabanelli di andare a fare un bel servizio nelle macellerie per vedere come vengono macellati col metodo allora gli animali. Dopodiché va benissimo le ocche, deve dimostrare in tribunale. Io mi auguro che lo dovrà dimostrare in tribunale e anche la RAI. Che quelle piume che lei ha fatto vedere spiumate crudemente sono finite nei piumini Moncler. Certo, questo è il punto. Esatto. Beh, nel frattempo dice Meluzzi che nel frattempo quelli perdono soldi. Ha ragione su questo, Meluzzi. 150 milioni di euro oggi pomeriggio. Ma il punto è esattamente questo, al di là delle oche. Che se tu, tua azienda di abiti oppure di cibo, certifichi che quel lavoro lì è fatto in un certo modo e poi scopri che non è così, questa comunque è una notizia. E ti dispiace se il titolo crolla o se la carne di vacca non la vendi più perché in realtà non è vacca. C'è un altro elemento, Meluzzi. Fatemi arrabbiare pare subito. Che esche, da quel servizio lì esce fuori che non c'è solo la piuma d'oca, no? Ci sono anche altri elementi all'interno dei piumini. Ma quello l'avete detto 100 volte anche voi, nell'era globalizzata il denaro va dove vuole, il capitale va dove vuole. No, il fatto che va dove vuole, su questo non c'è dubbio, però se non è solo piuma d'oca all'interno dei piumini Moncler, quello è un problema, e se tu lo presenti come piuma d'oca, no? Cioè se c'è un misto poi ma di... Ma questo è un altro problema, che non riguarda quel servizio, che tra l'altro non affrontava questa questione. Quel servizio può produrre un grave danno economico alla Moncler, che ha prodotto 150 milioni di euro di perdite oggi, che vuol dire danno occupazionale. Ma danno a te ti frega del fatto no, che le oche... Moncler non me ne frega delle oche, delle niente, oche, delle... della Moncler, io parlo e delle oche che vengono spennate? Interessa molto anche le oche, però dico, se dobbiamo occuparci di oche, occupiamoci dell'IKEA, dei piumini danesi, dei piumini, delle piumini anti-decubito nell'RSA per anziani, del paté d'oca, di tutti i vari canard, di tutta la cucina francese. No, ma come è fatto il paté d'oca, si sa? Scusami, però, perché sennò state giocando con le carte. Ma certo, chi mangia il patè d'oca sa perfettamente come viene fatto il patè d'oca. Allora, la questione è un'altra. Scandalizzi per il servizio della Gabanelli, perché ma quello ti è un servizio fatto in modo capito. Ma Meluzzi, sei troppo intelligente per non capire l'obiezione. Ma secondo te la Gabanelli dovrebbe restare alla RAI, essere cacciata? Ma io non lo so, io credo che se fossi il titolare di quell'azienda lì, che non so neanche come si chiami, io le farei causa e chiederei conto di 150 milioni di euro. Pare che lo vogliano fare. Ma io mi auguro che abbiano buoni avvocati e che facciano valere le loro buone ragioni in un tribunale, se ne esiste ancora uno degno di questo nome. Senti, ma ti voglio chiedere una cosa, Meluzzi. No, fermi. Meluzzi, ti voglio chiedere una cosa. Quando l'amministratore delegato, il grande capo della è un altro argomento, dell'Apple, Tim Cook, dice che l'omosessualità è un dono di Dio, tu che... Come... Ma non me ne frega niente, ognuno può dire quello che vuole. Ognuno può ritenere la sua sessualità dono di Dio, di Maometto, di Allah, di Buddha, di chiunque. Ognuno fa bene a stare bene nella sua pelle, stare bene come sta. Dopodiché fa bene anche chiunque pensi che questa cosa in altri ambienti. Ognuno è libero, nella mia mentalità anarco-libertaria, ognuno è libero di dire e di pensare tutto quello che vuole. Ma tu pensi ancora? Quello che non tollera la cultura del politicamente corretto, che vuole negare la libertà di pensiero e di parola ad alcuni che... No, ma questo d'accordo. Ma tu continui, una volta dicevi che l'omosessualità era un po' una malattia. No, mai detto questo. Io ho detto che l'omosessualità è una diversa, abilità della vita sessuale, della vita riproduttiva, non sessuale. Diversa abilità, che vuol dire diversa abilità? Vuol dire che se due uomini vogliono fare un figlio non possono ricorrere alle stesse tecniche a cui ricorrono un uomo. Diversa abilità, cioè sono disabili un po'. No, diversa abilità, si usa il termine che si usa nella disabilità, diversa abilità. Quando mi si dimostrerà che due uomini insieme possono fare un figlio, non sarà una diversa abilità. Finché la genetica, vabbè, e la biologia quello... è fatto com'è, quella è una diversa. Vabbè, ma quello non c'è manco bisogno, non c'è manco bisogno di sottolinearlo. Come se questa cosa ci si ritorna continuamente, come se fosse una mia colpa per ciò politicamente corretto. Io dirò che sono scemo, ma non tanto scemo da dire cose ingenue. Non dico cose ingenue. Va bene, fermi. Come sulla Gabanelli. Pasquale, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda, chiaro? Should I stay or should I go? Amici miei, siamo al top ragazzi. I'll be here till the end of time. Allora, a tutti gli ipocriti che mi stanno scrivendo, caro Parenzo, si facciano un esame di coscienza e pensino a tutte le volte in cui hanno ingurgitato, in cui hanno mangiato qualcosa che contiene oca. Ma non è questo il punto. Oh sì, aspetta, d'accordo. No, ma ti voglio dire una cosa in più. Dimmi, oca. Dimmi. Hanno cambiato, sai, dopo capra. Ora dimmi. È oca. Che mi vuoi dire? Dimmi. Perché la questione è della filiera. Sì. Cioè, se tu certifichi che è animal friendly e che quella roba lì, lascia stare il piumino, che la giacca è fatta con i peli del gatto e poi non sono peli del gatto ma sono peli di Cruciani, il consumatore questo lo deve sapere, no? Allora, facciamo così: la giacca è fatta con i peli di Cruciani, ci do made in Cruciani, d'accordo? Poi uno dice, cazzo, voglio comprare la giacca con i peli di Cruciani. Sì, ma non è accertato nemmeno quello. Questo è il punto di quella inchiesta là. Ma non è accertato nemmeno quello. Capito? E poi il punto non è solo questo. Mi scrivono, ciò che mi ha disturbato di più della Moncler è che questa società fa profitti perché i piumini sono made in Italy, abbia trasferito la produzione all'estero, danneggiando la produzione italiana e contribuendo a fare terra bruciata di quelle professionalità, eccetera, eccetera. Vabbè, io me ne fotto, io personalmente, del fatto che un'azienda delocalizzi e porti la sua produzione dove costa di meno, me ne fotto, fanno benissimo. Un altro scrive: il problema non sono le oche, hanno chiaramente detto che la qualità dei materiali è scadente, non frega a nessuno delle oche, frega che Moncler si spaccia per lusso e qualità. Anche questo non siete voi che giudicate la qualità, sono i clienti che comprano, se comprano. Sì, che però, bravo, comprano vedendo il marchio, la bellezza e anche la qualità di quel che uno produce. Se c'è scritto sull'etichetta peli di Cruciani e tu vuoi peli doc di Cruciani, non è accertato. E invece sono peli di Riccardo da Roma, uno non lo compra. Non è accertato. Se te lo spiego così, non è accertato al 100% che ci sia un misto di peli, non solo di oca. Il problema è un altro, scrive un tizio, Giovanni: il costo del Moncler di 30 euro non li paghiamo 1000. Vabbè. Viva Gabanelli, e questo ancora chi se ne frega. Coglioni quelli che comprano a 1000, secondo me. Coglioni quelli che comprano a 1000. Perché secondo me sì. Gabanelli ha fatto giustamente notare, mi scrive un altro, che si poteva scegliere di far lavorare gli italiani alla produzione dei piumini rinunciando a circa 20-30 euro a capo su un costo finale del prodotto che varia tra 850 e 1200, in realtà 850 e 1200 in negozio, no? Il resto è fuffa. Ma se uno è bravo a far costare un prodotto 30 euro e poi un prodotto che poi arriva al consumatore a 1200, ma è bravo quello che vende il marchio? Ragazzi, è coglione secondo me chi compra. Ancora un altro: il servizio voleva sottolineare soprattutto il valore di fornitura dei pezzi prodotti, valore tale che non giustifica la scelta di portare la manifattura extra Italia, producendo un danno alle nostre piccole aziende artigiane. Costi sociali enormi. Understand. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Il presidente della Commissione Europea Juncker replica a Renzi: non guida una banda di burocrati. Allarme di Bruxelles sul debito italiano per il 2015. Palazzo Chigi, incontro enti locali, governo sulla manovra. Per le province il rischio fallimento, ma si cerca un'intesa. A Fassino abbiamo fatto passi avanti. Renzi su Jobs Act, riforme non mollo. Per l'esecutivo la mancata crescita è colpa della Commissione Europea uscente. Giustizia civile, sì alla fiducia. Nella giornata delle forze armate, Napolitano mette in guardia dalle minacce di nuove forme di estremismo e fanatismo. Bisogna prevenire e contrastare. Giornata di mobilitazione degli operai delle acciaierie Terni a Bruxelles. Ancora polemiche per i nuovi video sulla carica della polizia a Roma. L'eutanasia di Britney, la ragazza americana affetta da un tumore incurabile. Secondo il Vaticano è un gesto da condannare, non è dignità togliersi la vita. L'italiana Fabiola Gianotti, nominata direttore generale del CER di Ginevra, è la prima volta che una donna è a capo del laboratorio europeo di fisica delle particelle. Ormai è tutto degradato. Sentire subito Diego da Milano. Buonasera, Diego. Buonasera. Dimmi. Salve. Che state dicendo una marea di cazzate. Su che cosa? Sulla Moncler. Sì. Non è vero un cazzo. Uno che costa 30 euro e che lo rivendiamo. Non ho mai detto che costa 30 euro. Citato. Il deficiente di Parenzo. Primo. Sì. No, secondo, non ho detto nulla del sì, simile. Ho detto che secondo. Vabbè, tranquillo. Servizio di... No, tranquillo sta minchia perché io lavoro per la Moncler. Sì, bravo. 1200 è un'azienda sanissima che fa un prodotto eccezionale. Eccezionale. Io ma no. Nessuno ha messo in discussione. Ma che cazzo vuole questo? Aspetta, stai tranquillo. Numero 3, numero 3. La brocca ci è venuta. Stai tranquillo. Che siamo made in Italy. È un'azienda francese acquistata da un santuomo che si chiama Remo Ruffini, al quale bisogna fare un ma nessuno quanti mette in dubbio. Allora Diego, allora Diego, dovete smetterla di dire minchiate. Allora stai la chi parlano devono con cognizione di causa, altrimenti la lingua te la devono mettere nel culo. No, le cani, io non ho detto nulla di tutto questo. Ma sia vuoi calmo. Stare calmo che governo io la situazione, o no? Dai, dovete Diego. Dovete smetterla di dire cazzate perché è un'azienda sanissima. Dovete baciarci il culo perché siamo una di quelle che veramente è un fiore all'occhiello dell'Italia. Allora, e solo grazie a quel signore con la barba che noi abbiamo l'opportunità di far vedere al mondo il cervello di un italiano. Vabbè, adesso arriva. Lasciamo perdere queste cose qua, Diego. Perché sfido chiunque a allora, né io né e vedere sì, che però non è che puoi fare il comizio adesso. Il culo di della Gabbanelli, di Cruciani, miei o ci sono più Medoca che non tirano da quelle teste di cazzo che squartano vive gli animali. Diego, devi stare calmo, né io né Parenzo. Bravo. abbiamo attaccato nemmeno per un secondo perché bravo. Non abbiamo fatto noi l'inchiesta, l'abbiamo solamente vista in televisione. Bravo. Abbiamo letto le cose sui giornali, abbiamo attaccato la produzione della Moncler, abbiamo posto delle domande a un signore che era incazzato con la Gabbanelli. Dunque, se proprio vogliamo dire, abbiamo portato una testimonianza, un'opinione a favore della sua azienda. Dunque, lo dico e lo può ripetere anche Parenzo, a noi non ci deve rompere i coglioni. Chiaro? Con queste robe qui assurde che riguardano i peli, le cose Cruciani, noi non abbiamo detto, ma non perché non perché mi sta simpatica la Moncler. Parenzo ha detto una cosa chiara, ha detto semplicemente che, facendo un altro esempio su altre aziende, qualora fosse dimostrato che io compro una giacca fatta di peli di Cruciani, se poi scopro che i peli non sono di Cruciani ma tuoi, vengo, è una cosa diversa. Io solo questo ho detto. Ma quindi non è così. Queste allusioni fine. Non si devono ma allusioni fare. A cosa che mi baso cosa? Su quello che ho visto su quel servizio che non ho non fatto io e di non cui me ne fotto vero. Peraltro che cos'è anche? Non è vero, scusa, cos'è che non è vero, tu che lavori là che le piume non sono le piume, che le giacche non sono un prodotto eccezionale. No, prodotto eccezionale o no? Anch'io ho detto: il prodotto eccezionale lo si giudica, è il cliente che lo giudica. Se il cliente continua a comprarlo, appunto. Evidentemente è un prodotto che piace, punto. Chi se ne fotte? Se ci sputtanano dicendo una marea di minchiate. Allora, dica qualcosa sulla Gabbanelli invece: come considera la Gabbanelli? Lei che è un impiegato della Moncler? Ma guardi, fino a qualche tempo, fino a prima della trasmissione su Tre, in parte gli credevo, anche se con qualche dubbio. Però la ritenevo una persona abbastanza seria. E adesso? Ora che ha toccato me nel vivo dicendo una marea di minchiate perché sono tutte balle, non è vero un cazzo quello che racconta, ci sono rimasto male. E come la considera adesso? Per Beppe Grillo, come? Come la considera adesso? persona poco seria che si affida alle chiacchiere di quattro pettegoli e non fa veramente ciò. Però scusi, allora la questione scusi, ma quell'azienda ungherese, quella immagini di quell'azienda ungherese che sembra essere tra i fornitori della Moncler. No, la Moncler c'è scritto anche sul sito ed è sì, prende compra le piume da un'altra azienda, da un'altra in Italia. Quella è la terza azienda in Nord America e in Francia. Benissimo. Sì, però allora, quell'azienda sono... non ha nulla a che vedere con altre aziende dal quale si rifornisce allora la Moncler. Ma perché hanno parlato solo di Moncler? Mi spieghi, ma no, ma infatti io me ne fotto di quali aziende si riforniscono da quella lì, fino a ieri me ne fregavo e probabilmente anche oggi continuo a fregarmene, se vuole saperla tutta. Le sto chiedendo, siccome sembra che, se no, è secondo quel servizio lì, questi ungheresi che spendono queste ocche in quel modo. Povera, ma lei ride, c'è un cazzo. Ma non rido da niente, non rido, le sto spiegando a lei che mi sta attaccando. No, io non me ne fotto, quello è un tema serissimo invece, come tosa. Sono le pecore. E allora non mangiare più il coso, non mangiare più il foie gras. Oddio non mangiare mio. Più il foie gras. Voglio chiedere a sto ascoltatore, dico, se c'è un'azienda ungherese che fa in quel modo lo spiumaggio delle oche, che poi vende a un'altra azienda, la quale quest'altra azienda vende a Moncler, quindi c'è A, B e C. In questo passaggio, questo dice quel servizio. Dovete controllare qualcosa dovete anche voi. Dovete controllare qualcosa anche voi. La qualità delle piume è tale per un piumino. Vabbè, quanto costa un piumino rispetto al prezzo lei che è dentro io la Moncler? Io questo non glielo ma posso non 30 dire euro, dice lei, non 30 euro. Ma assolutamente è impossibile. Costa 30 euro assemblarlo, sì. Sì, poi però non costa ovviamente le materie prime. Vabbè, ma dice... adesso 30 euro ma si arriva fino a 80 credo a seconda del ma a seconda... 80 ma non è possibile ma come non è possibile, guardi che 80 poi c'è quanto guadagnate voi poi quanto guadagna il commerciante per cui ma io questo qua lo considero vale, il valore ma io di questo marchio, lo considero una cosa normale. Allora io non ho capito, la Gabbanelli secondo lei deve chiudere? Ma chiudere magari no, magari andare a dire che forse è il caso di dire qualcosa di più vero, anche perché vabbè, non è solo la Moncler la produttrice di piumini, lì è stato un linciaggio contro quel signore che ha, cazzo c'è da fargli un inchino intero, ma come lui come... Vabbè un inchino che... adesso ha fatto il suo mestiere, quello là un imprenditore che fa lavorare certamente è imprenditore. Vabbè adesso è il suo datore di lavoro e il suo datore di lavoro non lecchi il culo in maniera così vergognosa, su Diego è già leccato il culo abbastanza, dai su. Ottima trasmissione, sempre la visione. Allora mettiamo un po' di carne al fuoco, al di là della vicenda Moncler, al di là della vicenda Piumini, Gabbanelli, eccetera, eccetera, non c'è solo questo. Già vi abbiamo detto del Vaticano che dice che l'insegnante americana che si è tolta la vita, malata terminale, sbaglia perché suicidarsi è una cosa cattiva. Non è una morte con dignità, a mio parere è una morte con grandissima dignità, con estrema dignità. Vorrei l'eutanasia anche se uno vuole crepare, crepi. Si deve dare la possibilità a uno di ammazzarsi. Poi ci sono due notiziole che inseriamo nella rubrica Italia paese di merda. Lasciatemi cantare. Questa Italia è un'Italia di merda. Con la chitarra in mano. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Lasciatemi cantare. È uno stato di merda che andrebbe processato. Sono un italiano. Questa è la merda d'Italia. Sono un italiano. C'è un'Italia di merda. Lasciatemi cantare. Allora ragazzi, nei giorni scorsi si è letto sui giornali, Parenzo, che ancora paghiamo noi con i tuoi soldi, i miei soldi, i soldi di tutti, la scorta alla figlia del dottore Scalfaro. Deceduto, ex presidente della Repubblica, lasciato il Quirinale nel 1999. Alla signora Marianna resta garantita la sorveglianza a nostre spese. Si dovrebbe capire per quale motivo, cioè qual è l'elemento della sicurezza, per carità non vogliamo dire niente, ma non siete un po' incazzati per pagare ancora con i vostri soldi, perché contribuite anche voi, anche solo con un centesimo, magari con due centesimi, alla scorta di Marianna Scalfaro. Seconda cosa, scusate, ma poi uno si chiede perché ci sono poliziotti che non stanno sulle strade, ma sono a protezione delle scorte, no? Di VIP / politici, eccetera. Ecco, questo è un esempio chiaro. c'è un'Italia di merda. Buongiorno Maria. E uno dice ancora una volta perché è difficile investire in Italia. Pensate, pensate, lo ha documentato bene l'amico Rizzo sul Corriere della Sera, Parenzo, che la linea C della metropolitana di Roma, sì, sì, la linea C della metropolitana, io ringrazio non so chi il giorno in cui sono venuto a abitare in questa città e di aver abbandonato quel lasciamo perdere, va. La linea C della metropolitana di Roma rischia di essere l'opera pubblica più costosa del dopoguerra. Cioè, mentre la metropolitana di Madrid ci sono voluti 36 mesi per realizzarla, la nuova linea della metropolitana di Madrid, 36 mesi. Qui non si sa quando si finisce, se si finisce tutta la tratta, e rischia di essere l'opera, con 6 miliardi circa possibili, l'opera più costosa del dopoguerra. Del dopoguerra. Questa è la merda d'Italia! Questo è! Io non ho ancora capito se il popolo della radio, qui che ascolta la Zanzara, è indignato per le parole che ha pronunciato ieri il signor Capece, che Parenzo ha preso per il culo chiamandolo Incapece. Incapece di intendere di volere, ma ci sta. Per quello che diceva, perché ci sta. È sembrato quando il segretario, come diceva Barnard, sì. Il segretario del sindacato degli agenti penitenziari ha detto queste parole sulla famiglia Cucchi. Cioè, ha detto sostanzialmente che la famiglia Cucchi ha abbandonato Stefano. A mio avviso Ilaria Cucchi doveva fare un discorso preventivo sulla questione fratello. Il fratello è stato abbandonato dalla famiglia. Se Ilaria Cucchi e la sua famiglia avesse seguito più da vicino Stefano, probabilmente l'avrebbe salvato da quella che era una cattiva strada intrapresa, cioè quello dello spaccio della droga. Sai che ci sono anch'io. Ancora. Stefano Cucchi, quando è stato detenuto al Pertini, no, ero io responsabile di quel settore, ha sempre sostenuto di non voler avere niente a che fare con la propria famiglia, quindi aveva preso le distanze parecchio. Ora mi domando come mai oggi la signora Cucchi si interessa tanto del fratello. Terza cosa di Capece, che probabilmente Parenzo tu schifi e consideri un personaggio cinico, che sciacallaggia, come si dice, che fa lo sciacallo sul corpo di una persona uccisa. Sostiene anche che Cucchi aveva delle fratture pregresse rispetto all'arresto. Probabilmente se avessero fatto più prevenzione e seguivano il figlio, anziché, come sempre succede, abbandonato a se stesso, forse non avrebbe subito tutti quei problemi, quei danni che ha subito, perché a me nulla toglie dalla mente che i problemi, che le lesioni, le fratture che lo stesso professor Damonte, il perito che ha fatto le autopsie, ha dichiarato che erano sicuramente pregressi al momento dell'arresto. Allora andiamo con gli ascoltatori. Dove andiamo? Andiamo. Andrea, provincia di Vercelli. Andrea. Buonasera. Dimmi. Mi sentite? Allora, io questa questione della Moncler sta diventando una questione di piuma caprina, se si vuole usare un neologismo. Io voglio solo entrare sulla questione animalista, anche perché a suo tempo fui il responsabile dei verdi di questa zona ed ebbi grandi contrasti con gli animalisti fanatici. Allora, io porto una testimonianza. Vivo in un paese che si chiama Palazzolo Vercellese. Allora? Notoriamente il paese delle oche. Cioè la gente di Palazzolo è definito le oche di Palazzolo, perché fra le due guerre e ancora dopo l'ultima guerra c'erano più oche che abitanti. Allora, l'oca era salvadanaio della famiglia. Ogni famiglia aveva una qualche oca che spiumava regolarmente a ogni stagione. Poi lo spiumaggio veniva ripetuto negli andiamo anni. Andiamo al sodo, Andrea, scusi. Quindi, cosa no, vuole voglio dire? Voglio solo dire che io non ho visto il reportage della Gabanelli. Voglio solo dire che siamo davanti a una questione per quello che riguarda la crudezza delle scene che dicono, sì, erano cose che avvenivano normalmente senza una grande sofferenza per le oche, al punto che l'operatrice brava era definita quella che, detto in dialetto, la pleva loca senza fare neanche crio. Sì, cioè, ho capito, loca. Andrea, però il punto è un altro: se lei non ha visto quello che è successo alle oche in quello stabilimento in Ungheria, non è che può parlare molto. Ci sono, allora, poi delle regole europee che prevedono che lo spiumaggio cosiddetto avvenga attraverso delle norme per non far soffrire l'animale. Io personalmente trovo tutte queste cose altamente ipocrite, per quello che mi riguarda, di un'ipocrisia spaventosa. Leggi europee sullo spiumaggio, una cosa terrificante, beh, no, terribile. Ma terribile. È stupidaggine. Ed è e c'è l'ipocrisia di fondo. L'ipocrisia di fondo. E allora quelli che mangiano il foie gras? Quelli che mangiano il foie gras. Infatti c'è una discussione in Europa anche su quello, certo. Beh, discutiamo ancora. Ma non è che allora, discutiamo. Eliminiamo ma... il foie gras. Eliminiamo il foie gras. Ma come dai. Sono coltivate le galline, scusami. Ma è fondamentale quello. Va bene, Andrea, ho capito. Beh, ho capito. Ma se lei non ha visto però il servizio, è inutile. Di che parliamo? Alberto da Milano, dai. Forza, Alberto. Oh, buonasera, Parenzo. Buonasera, Cruciani. Io volevo intervenire sui rom. Sì. Secondo me c'è solo una soluzione. Io posso dire una cosa che veramente, scusi un attimo, veramente io penso che di come vengono spiumate, a me non me ne frega un nulla, sei pazzo, zero. Sei, ma non è ma perché sono punto. A me non me ne vuoi frega niente. Come coltiva, come è cresciuta una gallina? Ma questo non c'è, io sto dicendo un'altra cosa, lo spiumaggio ma una gallina, delle oche, non me ne frega gallina, niente dello spiumaggio delle oche. In batteria tanto con 50 dopo. Galline. Tanto dopo muoiono, dai, ma forza. Quello dire, che c'entra, quello riguarda l'alimentazione, no. Alberto, che... dai. Alberto, quello riguarda l'alimentazione è un'altra cosa, dai. Alberto. Per quanto riguarda i rom, no? Sì. Io avrei una soluzione che sarebbe, secondo me, l'unica: avvisarli il giorno prima e il giorno dopo andare con le ruspe, perché io mi sono rotto i coglioni di questa gente. Ma veramente mi sono ogni giorno c'è una notizia su un rom, o e stuprano, e fa, ma cazzo, ha rotto veramente i coglioni. Ma questi. Stuprano hanno chi? Ma di cosa ogni giorno stuprano? Ma di cosa parla questo? Vada a vedere le notizie sui giornali. Ma ogni giorno stuprano, ma fermalo, Cruciani, fermalo. Ogni giorno stuprano. Rispondi, sei qui, rispondi. Ma no? Rispondi chi? Scusi, no, volevo rispondi fare una domanda a Parenzo. Scusi, Parenzo, ma se lei si trova in casa, una sera si trova in casa un paio di rom, come reagisce? Ma che vuol dire? Ma è che cosa cazzo, ma è ovvio no, che mi arrabbio. Ma è ovvio che mi arrabbio. Ma non è che gli dico, basta. Oh, vuole una tazza di latte, caro rom, se mi svaligi la casa? Ma chi è così, idiota? Perché fate ragionamenti idioti? Perché? È ovvio che se un rom mi entra in casa, non è che gli dico, oh, caro compagno rom, vieni, ti voglio dare del foie gras, caro, siediti a tavola, tieni, vuoi questo Rolex, amico mio? No, non faccio così, è evidente. Chiamo la polizia e mi sento è ovvio non è che gli dico, non ho capito, no. Alberto, la soluzione, la tua soluzione, vieni, amico certo, mio. La tua certo, soluzione invece qual è? La gente è matta. Ruspe, la tua... ruspe, il giorno ruspe, dopo le ruspe. Glielo si dice, da qua dovete sgomberare, fatevi i vostri bagagli di merda fuori dai coglioni, il giorno dopo. E sono dopo ruspe. No, punto. Però sulle ruspe, se uno avverte, se uno c'è un campo rom, se c'è un campo rom illegale, no? E uno gli dice, guardate, con velocità, non con i tempi italiani, da qui dovete sgomberare, no, perché vivete nell'illegalità. No? Certo. Uno dice, domani sgomberiamo il campo. Poi questo ruspe deve avvenire. Non ha, certo. Da questo punto di vista non ha tutti i torti, Alberto. Certo. Allora, cioè, intanto, alcuni campi sono fatti dai comuni. Questo voi non lo sapete, perché poi voi la parola rom, come Darth Vader di Guerre Stellari, uguale rom. Ci mettete dentro di tutto. Questo addirittura dice stuprano. Ogni giorno stuprano. Cioè, capito a cosa arriva il delirio? Volevo... Hai sbagliato a dire ogni giorno, perché ormai è tutto talmente rom. Lei ha abitato a Milano, è andata a farsi qualche volta. Vabbè, io sono Alberto, gli stupri li fanno anche gli italiani. Dai. Gli stupri li fanno gli italiani, li fanno anche gli extracomunitari, ovviamente. I rom non è detto che siano extracomunitari, innanzitutto. Le persone le fanno le bestie. Non ci sono statistiche che dicano che i rom stuprano più rispetto agli italiani o ai marocchini, eccetera, eccetera. Per cui sono puttanate. Certo, hanno una propensione. Io dico, adesso mi querelleranno per questo, eccetera. Nella comunità rom, certo, c'è una propensione, insomma. No! Ah, vabbè, va. Paolo da Mantova, Paolo, vai. Cruciani, dimmi. Ognuno ha la sua propensione, lei c'è quella a leccare il culo ai poteri. E quali sarebbero i poteri in questo caso? I poteri in questo caso sono la Moncler e Prada, perché parlare delle oche che sono l'ultima ruota di questo problema, le povere oche, quando gli stipendiati là in questo paese non sanno anche il nome, prendono 120 euro e sono sfruttati da imprenditori italiani. Ma chi? Non ho capito chi, non ho capito bene. Quelli che lavorano dove ci sono le oche prendono 120 euro al mese di stipendio, compreso quello che può essere l'INPS, l'INAM, tutte le cose che abbiamo noi qua in Italia. E lei questi li chiama imprenditori? Questi sono degli sfruttatori che, se avessero delle puttane, sfruttano quelle. Cioè, ma non lei sono, dice quelli che vanno, quelli che vanno, quelli che io vanno. Io sono imprenditore, se voglio vado all'estero, non spendo niente, mi danno dei soldi. Ho capito, ma non è proibito, eh? Non è proibito. Ma non è proibito, ma è morale. Io le chiedo questo, se lei la morale non interessa, va bene, perché ma che Italia vuol dire la morale? Non esiste la morale in queste cose. Ma non esiste la morale. Io, per quello che riguarda, la lascio agli altri. Questa gente si mette in tasca milioni di euro, li sputtana via e non li utilizza. E questa è la morale, di lavorare per qualche Paolo, cosa di senta, più costruttivo, non per mettersi in sacco. Vabbè, soldi. Qualcosa di più costruttivo. C'è chi pensa invece che il massimo del profitto, nessuno, che il massimo del profitto. A casa senza lavoro, non c'è nessuno a casa vicino senza lavoro. Ho capito, ma il problema non è questo. Il problema è quanto costano le cose da noi. Il problema è quanto costa il lavoro da noi. Allora lei dice che noi dovremmo lavorare per 130 euro. Questa è la sua ma teoria, io non dico questo. Filosofia. Io ho detto, siccome il mondo purtroppo è cambiato, Moncler, me ne sbatto i coglioni di Moncler e Prada. Come ladri, quelli che fanno l'iPhone a 50 euro in Cina, lo rivendono a 5,50, sono dei ladri, bisogna chiamarli col loro nome. Vabbè, ma se lei pensa che sono dei ladri, se lei pensa che sono dei ladri, come dice lei, perché tutta quella ricchezza lì dove va dopo? Me lo dica lei, Cruciani, in tasca a gente che porta a casa 10.000 miliardi di dollari di utile, e se li mette in tasca cosa ci fanno? Ci fanno dei posti di lavoro, ci fanno del benessere per la gente, se li intascano e basta. Questa non è una morale. Ma io sono un imprenditore, che vuol dire la mattina quando vado a lavorare ho 20 famiglie che dipendono da quello che benissimo facciamo in quell'azienda lì. E scusi, io mi vergogno di questi imprenditori, ma mi vergogno. Cioè lei si vergogna per esempio di persone come quello della Moncler, che ha portato la sua produzione fuori? Io mi vergogno anche di Prada, perché qualche anno fa lavoravo per Prada e dall'oggi al domani, alla mattina, hanno preso solo loro 31, sono andati a produrre in Turchia, poi sono tornati in Italia, poi sono andati in Cina, poi sono andati dove d'accordo gli faceva comodo, e poi sono andati a quotarsi in borsa, hanno preso 1 miliardo di euro, li hanno messi via e hanno fatto 300 posti di lavoro, 400 in Italia, quando ne potevano fare 3-4 mila, non dico guadagnando meno, ma il Paolo, 10%. Paolo, purtroppo sarà una visione, come dire, troppo modernista, eccetera. Purtroppo queste cose accadono perché il mondo si è aperto, il mondo è cambiato e il denaro va dove costa meno impiegarlo. È naturale che sia così. Poi ci sono alcuni che lo fanno, altri che lo fanno di più, altri che lo fanno di meno, altri che lasciano un po' di produzione in Italia, altri che la lasciano al 50%, ma chi lo porta al 100%. È come la storia, il è fatto così di migrare, andare. È così. Cioè, io non me la sento di condannare, non me la sento di fare il ditino come alcuni fanno. Non dico la Gabanelli che fa il suo mestiere, non è quello il punto. Anche se alza il ditino pure lei, ovviamente è indignata pure lei perché dice si potrebbero produrre alcune cose in Italia. Beh, questo sì, eccetera, eccetera. Vabbè, io invece penso che Cucinelli produce tutto in Italia. Io invece penso che se il denaro costa meno da una parte, impiegarlo, è giusto ed è normale che vada lì, e non me la sento di dire voi siete immorali, come dice questo qua, chiaro? Ma ti piscio in testa! Baby, I feel good. Ma non lo dico perché sono venduto alla Moncler, o venduto a Prada, non me ne frega nulla, non mi comprerei mai un pulmino dalla Moncler, adesso mi ammazzeranno. Ma questo che sei un taccagno. No, ma no, non è quello, non comprerei, ma non dire stronzate, però questo inutilmente. Tuo, fai una battuta, spendi, io spendo un sacco di soldi, per cui non niente, dire stronzate. Va bene, d'accordo, allora chiaro, non è bene così. Come un monaco, va bene, senza essere la pira, ma non me ne vergognerei. Senza vergogna avere l'altezza morale, ma che non me ne vergognerei. Vivi come la pira. Che se fosse così non me ne vergognerei. Ma non me ne vergognerei per niente. Arriva Parenzo a dire le stronzate. Allora, adesso amici, che ce le freghiamo. Vi voglio segnalare una grandissima intervista su Dagospia dell'amico Dandolo a Paolo Ruffini, di cui parleremo. Bella, sì. Di cui parleremo. Un'intervista molto dettagliata. Vista, molto dettagliata. Sul la sesso. Dandola, la Dandola è la Dandola ha colpito ancora. Diciamo, colpito ancora. È con noi Vittorio Sgarbi. Vittorio, ecco, sono qua. Come andiamo? Benissimo. Senti, ma io non ho capito. Ormai c'è una specie di tandem sì, dei ferraresi, ha ragione Coso, come si chiama quello, il calabrese, che dice che c'è la lobby dei ferraresi, sì. Franceschini. Beh, però in verità sui Franceschini di Sgarbi, che era la partita seria, è andata male, e invece stavolta sul Colosseo stavolta fate comunella. Colosseo è una cosa insignificante, ma può avere una logica, nel senso che lo vedi, è come vedere di te lo scheletro invece che il corpo, nel senso che se uno fa un'operazione di autopsia recupera degli elementi che fanno parte di noi, ma sono un organismo morto, l'organismo vivo è un'altra cosa. Quindi vedere una macchina il cui motore è coperto vuol dire poterla usare, sì. Vedere il motore vuol dire non poterla usare. Quindi insomma, vediamo il motore del Colosseo. Il motore del Colosseo è fatto di percorsi, strade, sottostrutture, sì. Le quali sono state messe in vista da questi come dire medici che fanno l'autopsia ai monumenti per l'idea di metterci sopra un piano di calpestio per utilizzarlo. Anche ma tu non che ci faresti col Colosseo, Vito? Che ci faresti? Ci farei spettacoli teatrali più che teatrali, criminali, cioè, farei cose di Pasolini. Come no, Pasolini basta con Pasolini, Pasolini ogni volta, dai. Cose violenti, cose un po' di Pasolini, quanto Pasolini, qualcosa che abbia a che fare con la drammaticità di una vita, cioè perché lì ci morivano le persone. Sì. Non puoi fare teatro comico, non farei neanche musica, farei tragedia, ecco, diciamo tragedia, Shakespeare. Ecco appunto, quindi diciamo Pasolini per dire l'esempio di una attualità drammatica. Spettacoli teatrali, non ho capito. Teatrali cruenti, c'è più tragedia, ma ci sono. Ma gliel'hai tragedie. Suggerito tu o quell'altro architetto? Chi no, il Titus Andronicus, ad esempio. Non avevo mai pensato, perché io devo dire la verità: il Colosseo, visto così con le sue budella, io non ho mai avuto voglia di vederlo dentro, perché capisci che non ci puoi camminare, cosa che non ti capita da Urbina, non ti capita Verona, non ti capita. Ma di chi è stata la colpa fino adesso che noi non abbiamo sfruttato, non abbiamo sfruttato mai una roba come il Colosseo? Alla fine è l'Italia di merda, diciamo la verità. Dai. No, negli anni 30 hanno cominciato a scavare, hanno fatto questa operazione di autopsia e l'hanno lasciata interrotta, cioè non sono andati avanti. Probabilmente avrebbero dopo lo scavo, che poi puoi percorrere lo stesso l'interiore del Colosseo avendo il piano di calpestio, quindi non è nulla della cosa lì. Ma uno ci dovrebbe guadagnare dal Colosseo, guadagnare un sacco di soldi, venderlo, allora, vendere il Colosseo, venderlo. Che tu dici, venderlo. Dice che ci sia uno spettacolo naturale, dall'altra parte tutti i monumenti egizi sì. Hanno il son e lumière. Voglio benissimo, viva la topa! C'è sempre meno figa! Da voi in trasmissione! Ciao Crucias! Beh, amici miei, vi dico solo. Vi dico solo una frase, puoi dire ai bambini di tapparsi le orecchie, Parenzo, per favore? Sono le 20, aspetta le 20 e 30. No, dai. No, di ai bambini, per favore, voglio dare qualche anticipazione. Allora, dai, cari genitori sì. Che siete in macchina, sì. Che state tornando a casa, che state tornando dalla vostra amante, dalla vostra moglie, eccetera. Avete il bambino in macchina, siete pregati in questi 30 secondi di frenare intanto bruscamente. Beh, certo. Prendere, improvvisamente così, prendere il bambino, sì. Metterlo davanti nel... Cioè, fuori dalla macchina e senza le cinture di sicurezza appoggiarle sul cofano lì e dire no bambino io arrivo subito, risalire in macchina rapidissimamente, innescare la quarta e partire con la radio a tutto volume. No, non solo con la radio, con la zanzara messa a tutto volume con la radio, anzi, allora la radio è sinonimo di zanzara. Beh, hai ragione su questo, hai ragione. Anzi, oca Paolo Ruffini. No, oggi è così. Oca Paolo Ruffini, ho una bella fava lì sotto, ma quello di cui vado più fiero è la mia cappella. È davvero enorme e poi mi depilo. Quando ce l'hai glabro, le dimensioni si amplificano. Questo non lo sapevo però, eh. Secondo me è tutta finta. Col pelo il cazzo, naturalmente, perde le potenzialità però... della sua possata. Amico mio, questo è. Ma questo cosa non è necessario. Due colpi adesso, alla Loren, certo, per il piacere di farlo con un mito e per il piacere di raccontarlo ai posteri. Vabbè, d'accordo. Amici miei, siamo al top, eh? Beh, siamo qui al top, siamo, ragazzi. Qui siamo veramente al top. Secondo Ruffini, la passera, che lui chiama figa ovviamente, ma anche noi possiamo chiamarla così, ha il sapore della liquirizia. Vabbè, della liquirizia. Però, della liquirizia, ma io non ho mai visto. Non possiamo tornare da Sgarbi. Anzi, del casciucco alla Livornese. Non essere in imbarazzo, sono cose normali. Ma in imbarazzo, io no. Ma a letto mi piace schiaffeggiare le chiappe, ma mi piace anche quando me le schiaffeggiano. Vabbè, questo diciamo è normale. Adoro il mondo gay e trans, ma purtroppo mai un istinto sessuale. Signor Paolo Ruffini, Sgarbi è caduto dalla linea, adesso lo recuperiamo, dai forza Vittorio, e dai. Che non è il direttore, ex direttore di Rai 3. Questo ci tenevo. Chi? Ah, Ruffini, sì, no, no, Ruffini, attore, si, regista, eccetera. Uno sintonizza su Radio 24 e ci stanno parlando di Ruffini. E uno pensa, l'ex direttore di Rai 3, ex direttore della 7, nonché oggi a TV Sat 2000, no? Ecco, non è quel Ruffini che ha fatto questa intervista. Allora, è tornato. Sono qua. Eccoci qui. Allora, hai sentito di questa intervista di Ruffini? Sì, vabbè. Eh? Hai sentito di questa intervista di Ruffini che discetta sulle sue misure? No. Sì. Vabbè, un attore, regista, frega, soprattutto, ma che gli frega Vittorio, eccetera? Assolutamente no. Ruffini che sarebbe il direttore, vedi, di Cairo? No, no, vedi? Ex di Cairo, ex, no, di Cairo. No, no, no. È TV 2000 adesso, non è dato. Sì, lì, esatto. Sì, sì, però questo è l'attore. Sarebbe. Questo è l'attore e regista, Paolo. No, Ruffini l'attore non mi è noto. No, ha fatto un'intervista in cui dice di avercelo molto grosso, vabbè, d'accordo. Ah, però. Vabbè, insomma, questi sono, per me d'altra parte non è un vantaggio. Non è uno svantaggio, insomma. In che senso? Ah, se tu dici è un dato di fatto, dici dato di fatto, insomma, non so che profitto ne possa avere, insomma. Ma, può darne, forse può dar profitto, ma avere, sì, ma, sicuramente, sì. Quando tu lo dici attiri verso di te un certo interesse, no? Devi, devi sapere, sì, che l'altro giorno l'ho già raccontato qui, ma stavolta lo racconto davanti a Vittorio Parenzo. Ero in un ristorante, sì, ristorante Taggiura, ristorante che frequento, ormai tutti lo sanno, da un po' di anni, e ero a pranzo con Giorgio Grasso, altre persone. Arriva Vittorio insieme a Palazzo Sant'Elia, alla fidanzata. Dov'è? Sta facendo una mostra, Vittorio non sente. E sì, sì. Era con la sua fidanzata e altre persone, eccetera. È arrivato, si è fiondato in un tavolo accanto dove c'erano tre ragazze. Cioè, beh, ma vabbè, quasi, questo non, cioè, è un reato. No, voi eravate, no, c'erano tre ragazze che carine e gentili, e voi quattro maschi particolarmente brutti, nonostante il tuo profilo a Sigismondo Pandolfo Malatesta. E invece ricordate che ragazze, come ce l'ho il profilo? Scusa, come ho il profilo? Sigismondo Pandolfo Malatesta, un profilo antico come una medaglia rinascimentale. Quindi potevi far finta che loro sapessero, o loro sapevano, che tu eri Cruciani, e avere niente, ignorate completamente. Io ho visto che la loro sedia, la quarta, era libera, essendo le vostre occupate, mi sono messo lì e le ho annesse, ed erano belle, gentili. Sono state promosse da Sabrina, che la guardate con attenzione. Sì, ti sei messo, bella. Poi ti sei attaccata a quella più carina, quella, sì, più bella, che aveva il cane, che però era sposata. Però dire, mentre lo racconti, con molta puntualità per la seconda volta, che cosa? Poi non era un altro tavolo, era quasi lo stesso tavolo da voi ignorate per la vostra maleducazione. Ma no, noi ignorate, esatto. Sì, no, sì, sì, ignorate, ha ragione. Ignorate. Ma no, ma dai, su, non è che dovevamo ignorare. È molto probabile che abbia ragione. Poi quelli che non vogliono attaccare briga, che non vogliono montare. Invece io arrivo, sono consapevole di essere sgarbi anche per loro. Infatti lei mi ha raccontato che sua sorella o sua madre è una mia grande ammiratrice, che voleva parlare di una serie di storie. Ma sei riuscita a rimorchiarla o no, alla fine? Non dovevo rimorchiarla, volevo. Ma come no? Dai, su, eri tutto attaccato, lì abbordicato, dai. Perché ho saputo che era sposata, quindi l'ho tenuta per libera. E sai che la donna sposata. Ma come si chiama? Quella. Tu sei andato da una russa a dire voglio una metterti russa incinta, ma è una cosa pazzesca, dai. Ma quello no, quella è una battuta che sarebbe. Quello è molto strano, perché la battuta è stata fatta per un'intervista che lei doveva farmi, in cui io vedevo questa altissima e magrissima. E dico, beh, forse dovresti metterti incinta, ho detto, ma per dire di ingrassare. Era una battuta che è diventata materia di una registrazione che ha completamente offuscato il pittore. Ma tu hai detto come addirittura se... che costa molto mantenere una russa. Ho detto, sì, che mantenere qualunque donna o madre di figlio costa come costa a me, come è costato a me, ma questo era per la conseguenza. Cioè io il discorso l'ho fatto concatenato, come dire, potresti esserlo per apparire meno magra, ma poi il figlio dovrebbe essere tuo, insomma, no, 30 secondi che... Comunque, Vittorio, il fatto è molto semplice. Nel tavolo accanto c'erano tre belle ragazze, io le ho ignorate perché non me ne frega niente perché all'ora di pranzo, di tacchinare a all'ora di pranzo. No, mi hanno anche riconosciuto alcune di queste cose. Però tu invece ti sei fiondato lì, eri accompagnato pure dalla tua fidanzata, che ormai sopporta qualsiasi cosa, sembravi veramente uno allupato al massimo, dai. Ma no, erano ragazze gentili che avevano una storia da raccontare, io l'ho ascoltata. Comunque mi ha colpito molto quello che hai detto sulla trattativa, perché a noi ci ha raccontato una balla, cioè di avere ascoltato queste intercettazioni telefonate tra Mancino e Napolitano. A noi ci hai detto, vabbè, Ingroia era stato definito in un certo modo, no? Sì, testa di cielo. Però non era una cosa diretta, tu l'hai sentito, diretta, te l'ha riferito una con cui sei andato, sì, forse a letto, che era la fidanzata di uno che le ha sentite, c'è, cioè, una roba di terza mano. Dai. No, di seconda mano, non di terza mano. Perché c'è quello che l'ha sentita, che l'ha riferito alla fidanzata. La quale fidanzata, l'ex o fidanzata, ha avuto una storia con te e te l'ha raccontato, non so, nel momento del coito, non so quando. Non cambia assolutamente niente, testimone di una cosa che aveva sentito, anche perché l'elemento, se tu ricordi bene la vicenda, non furono considerate interessanti neanche dai PM, per cui c'è stata una retorica su quelle telefonate favorita dal fatto che lui ha voluto farle, farle distruggere, ma le ha fatte distruggerle non perché ci fosse qualcosa di compromettente, ma perché erano inadatte sul piano formale a un Presidente della Repubblica. Qual era questa ragione? Che lui diceva il suo pensiero su questi due. Sì, ho capito, ma è una roba che ti ha riferito una, non so in che occasione, mentre ci scopavi, detto, quando? Mentre ci scopavi, detto, quando? Era una ragazza, abbiamo una ragazza che è moglie di uno di questi, dei 6 o 7 che hanno sentito le intercettazioni, che diceva che il punto chiave di queste telefonate era quando Napolitano diceva quello è uno stronzo, quello è una faccia di mezzo, delle battute. Ho capito, però non... è una roba che ne sai, che cioè, te l'ha raccontato, non è che l'hai sentita, te l'ha raccontato una che a sua volta l'ha sentito dal fidanzato. Perché non sarebbe lo stesso se l'avessi sentito tu. Se tu senti quello che stai raccontando tu di quelle ragazze, è fede degno. Tu l'hai visto, l'hai raccontato, è sì, certo, identico. E ora perché tu non, perché un'altra persona deve essere meno fededegna di te. Vabbè, però... sei stato perfetto nel raccontare quell'episodio nel dettaglio. Hai ho capito. Sì, certo, ma perché l'ho vissuto quel dettaglio, quel dettaglio. L'ho vissuto al marito che gli ha detto, sai che c'era Napolitano, che diceva che questo è uno stronzo. Non è che c'era molto di più. Senti, però ti voglio dire una cosa su quello che ha raccontato la Pascale sull'incontro con Berlusconi. Ha fatto un'intervista nel libro. No, ma è fondamentale perché ha dato tutta una sua storia dell'incontro con Berlusconi. Ha detto: in privato lo chiamo amore o B, a lui B non piace, quindi da un po' lo chiamo solo amore, in pubblico presidente, ovviamente. Questa è una confessione. Poi ero ancora una ragazzina quando mi sono messa in testa di conoscerlo. Ho iniziato ad amarlo in maniera ossessiva, piano piano ho cominciato ad avvicinarmi a Forza Italia. Il 5 ottobre del 2006 alle 13.50 arrivò la grande occasione con altre quattro pazze di Silvio Cimanchi. Eravamo a Roma quando ci dissero che lui aveva una riunione al Duke Hotel dei Pariolici. Precipitammo lì, arrivò lui, era davvero affascinante, lo guardai come una deficiente. Presidente, gli dissi, lei è bellissimo. E da qui pare che gli abbia lasciato un numero di telefono, aspetto la tua telefonata. Lui lo chiama una volta dopo due mesi a mezzanotte, pronto, chi sono, parlano due ore, prima o poi ti innamorerai di me. La canzone di Gianna Nannini, per un periodo aveva la canzone di Gianna Nannini con l'associata numero di Berlusconi, questa è la canzone, sentite, Gianna Nannini, prendetemi Gianna Nannini, su ragazzi, forza a Nannini, forza, fate partire a Nannini, dai, via, fatemi partire a Nannini, non parte, vabbè, ma adesso partirà, dai, capito qual è tutta una cosa romanzata, cos'è che non torna in questo racconto? Cos'è che non torna? Vittorio? Lo dici a me? Certo. Lo sapevo, ve l'ha raccontato mille volte lei. Cioè l'esaltazione di una donna per Berlusconi può apparire improbabile o incredibile soltanto una magistrata come quella che chiedeva a Strauss-Kahn se una donna di 30 anni poteva serenamente scopare con un sessantenne. Io posso testimoniare come Strauss-Kahn è assolutamente normale e che non c'è, non è che lo fa per vantaggio o per danaro, lo fa per fascinazione. Però la fascinazione degli uomini non è legata a una bellezza assoluta o alla giovinezza. Quindi questo che è accaduto a Strauss-Kahn e che ha messo in riga questa magistrata, cioè, ma com'è possibile che una di 30 anni sia con un uomo gratuitamente? Di più, affascinata da lui, è quello che abbiamo detto alla radio con te, che è indignato della Carmen Lera per Moravia e di tante donne che sono state con uomini molto più giovani. In questo caso lui è stato un mito, una rock star della politica, e sicuramente lei lo ha visto con l'occhio di chi guarda un uomo il cui potere, le cui capacità, la cui impresa politica sono sicuramente fascinanti. È tutto vero, non c'è niente di... non c'è niente da... ma qualcuno... non c'è niente di strano, ma sulla... non sia bello è irrilevante, ma neanche... no, ma quello chi se ne frega, figurati, no. quello no, sull'ossessione. Scusa, quando Jacqueline Kennedy si mette con Onassis, lo farà per denaro, ma è chiaro che Onassis era un peso potente di vitalità, di espressione del potere. Ecco, però ti voglio chiedere questo, perché la Pascale si è avvicinata molto al mondo omosessuale in quest'ultimo periodo? Qualcuno sospetta perché ha dei gusti sessuali un po' particolari, questo è quello che si dice, c'è niente di male in questo, tu che cosa credi? No, io credo che la Pascale appartenga alla generazione delle donne naturalmente bisessuali, che non vuol dire omosessuali, vuol dire che nel rapporto con una donna... Beh no, ma questo è interessante, donna, è interessante, cioè secondo te... è normalissimo, io ti posso raccontare quello che è capitato a me, che tanti anni fa, da amiche anche di Parenzo, una signora brasiliana, andiamo forse anche lui, dopo una trasmissione andiamo a una cena e ci sono due ragazze che si baciano, non mi salutano neanche perché erano prese da questo, alla fine erano trentenni, da più, questa si avvicina e mi dice, mi dispiace, ero qui con la mia amica, non è che siamo lesbiche, ma facciamo questa cosa così, lei è stata con un altro, e questa, la seconda volta, dopo 15 giorni, vado a presentare un libro a Castello Arquato, e due ragazze vengono a sentirmi. Una di queste dice, più giovane, 25-26 anni, ho detto a lei che se non mi portavano non gliela davo più, cosa non le davi? No, perché siamo insieme, non siamo lesbiche, siamo lei la mia fidanzata, tutto così. Passano altri 20 giorni, vado a un incontro con dei altri 19 anni, racconto questo episodio, quello che ti ho detto, e lei mi dice, ma per noi è normale avere rapporti con le nostre compagne, è un fatto, cioè una specie di legittimazione di quello che prima era trasgressione, poi era normalità, poi è diventata una consuetudine. Per cui tu stai dicendo che lei è naturalmente bisex? Naturalmente, siccome un numero molto alto di ragazze sotto i 25 o 30 anni, per cui la consuetudine di questi approcci è tale da avere una sua eccitazione per i maschi, ma non far diventare la donna per te stesso omosessuale. No. Invece la ripa di Meana, ma quante non ne ho viste? Ma tu hai visto anche la Pascale, scusami se te lo chiedo. Non posso rispondere a questa domanda perché non l'ho vista in azione, ma l'ho vista in reazione. Cioè? Ho visto in reazione nel senso di un insieme di donne che facevano un incontro in una casa di Berlusconi, in uno spettacolo eccetera, che erano tutte in qualche modo intorno a lei, la quale le conosceva una per una. Che cosa avessero fatto? Da che punto di vista? Posso pensare, non lo so, non l'ho visto. Però tanto, secondo te è naturalmente bisex, diciamo? Naturalmente bisex, questo non lo so di lei, ma sicuramente della sua generazione. No, direi, di quella visione del mondo, per cui certamente quello che racconta la Bonnev è brutto, è sgradevole, è volgare, è come la Bonnev, però probabilmente è vero. Probabilmente è vero. Probabilmente è vero che si sono trovate lei, la Pascale e Berlusconi in un intreccio di sessuale amoroso, diciamo. Non è però che questo vuol dire che era lesbica, come diceva. Ma no, ma che c'entra? Giocava, no? Giocava col sesso, con le donne. Gioca col sesso con le donne. Queste cose il nostro ormai sempre più proprio Parenzo le ha viste con me. Noi eravamo nella stessa festa insieme con due donne che si facevano ed erano davanti a tutti come se fosse normale. Sì, 10-12 anni fa. 10-12 anni fa. Eravamo a casa, si può anche dire, perché poi è nato anche un libro di Lara da Sosa, si chiamava, la ragazza brasiliana, che poi scrisse un bel libro con un autorevole giornalista del Corriere della Sera, perché era stata una delle amanti di Ronaldo. Ed eravamo a casa sua in questa festa. Ma scusa, ma non vi siete arrabbiati come bestie a vedere queste? Ma no, perché siamo gente civile, gente per bene. Per lui meno, ma io ero già il seduttore Sgarbi. Non mi hanno cagato. A un certo punto lei si è quasi scusata, dice: guarda, ero lì con questa ragazza, mi dispiace non averti salutato. Vabbè, baciare, è vero, è vero. Sì, ecco, vedi. Era una festa di 10 anni fa che mi ricordo ancora. Sì, certo. Scusa, nel rapporto, secondo te, nel rapporto con le donne, la Pascale com'è? Maschio, femmina, com'è? Non c'è più la differenza sessuale, perché non è omosessualità, è una specie di spettacolo di piaceri, di carezze. D'altra parte c'è anche tanti quadri antichi, se tu guardi i quadri di Courbet, io ho dei quadri addirittura del 600 in cui questo sassismo è un modo quasi per i maschi, cioè, ma è una cosa che non rientra in un costume che non è come Gertrude Stein, non è un rapporto uomo-donna. No, ma ho capito. Per cui non la Pascale rimane femmina, ma la Bonner, e alla fine dice è lesbica, no, ha giocato con te per eccitare il capo, per eccitare il padrone. Per eccitare il capo, Berlusconi, sì, ho capito. Questo è così, e lui si è eccitato a vedere il sassismo di queste due. Credo che sia plausibile che non se lo sia inventato la Bonnet, ma questo non vuol dire che doveva dirlo, ma dicendo non poteva equivocarlo come un rapporto omosessuale, ma come un modo di compiacere, perché tanto, perché l'omosessualità può essere dannosa dal punto di vista psicologico per chi non lo è? Perché c'è la penetrazione, cioè se tu lo prendi del culo evidentemente c'è il ruolo femminile, ma se non c'è la penetrazione dov'è il ruolo femminile? Beh, diciamo che ci sono anche degli strumenti, Vittorio, come sai, si possono... No, questo è ovvio che uomo e donna possono assumere, due donne possono fare, ma dico, nel maschio che assume una condizione che è quella sua psicologica, naturale, quindi genetica, di omosessualità, c'è una passività che lo fa diventare femmina. E se tu leggi Ernesto di Umberto Tavolo, certo, sì. Ma quella passività è legata al fatto che uno è penetrante, l'altro è penetrato, e due donne dov'è? Ma no, ma non c'è dubbio, se tra le due donne ci può essere omosessismo, non sono forme di omosessualità obbligatoria. Sì. E so, puoi tornare indietro, mentre invece puoi assolutamente diceva, tornare indietro, è vero, sì, puoi tornare indietro. Quando diceva Holstenberg che era anche lui bisessuale, e quando hai trovato quello, non vuoi più tornare indietro, diventi un fedele di quello. Ed è interessante questa dichiarazione. Assolutamente, no, ma il lesbismo è molto diverso dall'omosessualità maschile. La bisessualità è di tutti, possono averla tutti, ma nel caso delle femmine. Però è vero, però è vero che ormai con sai, insomma, no, il mercato che c'è di oggettistica, eccetera, anche nell'omosessualità, cioè nel gioco tra le donne c'è un aspetto dominante, un altro, diciamo. Sì, però questo ove si assuma un rapporto che diventa omosessuale, ma pura bisessualità, le funzioni femminili rimangono assolutamente tali, senza che una sia il maschio. Sono due femmine. Assolutamente. Che vanno volta a volta la femmina all'altra. Beh, grande lezione, Parenzo, grande lezione, sì, di sesso. Io ho conosciuto anche delle fattispecie di femmina a femmina, in cui una fa la femmina all'altra e una temporaneamente assume il ruolo di maschio. Poi invece di lesbiche che hanno attrazione soprattutto per la donna e su di lei diventano un maschio. Quella è la caratteristica però intensiva, per così dire. Proprio quelle lesbiche vere e proprie. Tu dici invece della Pascale, dici un'altra cosa, che ha solamente dei rapporti se ha fatto, non l'ho visto, lo ha fatto per il divertimento del signore con la complicità dell'altro, la quale pure se sta per voi non è mica lesbica, la buona non risulta lesbica. No, certo. Che è stata con lei. Va bene, allora, Vittorio, ti saluto, ti abbraccio, ciao, traffico. Ciao. Sei nell'anima. Vabbè, adesso questo che c'entra? Chi era questa qua? Era la signora Rivelli, chi era? Nike Rivelli, sì. Nike Rivelli. Allora, devo dire una cosa, che parliamo per un istante di una cosa importante, no? Che un po' godo quando il capo della Commissione Europea, per cui non ho nessuna simpatia, Juncker, risponde a Renzi in questo modo, perché uno non è che se la può prendere sempre con la burocrazia europea, che non vuol dire nulla, no? La burocrazia europea, la banda di burocrati. Quello ha detto, scusa, io non sono a capo di una banda di burocrati, forse tu sì, magari riferendosi alla burocrazia italiana o ai partiti, eccetera. Sono il presidente della Commissione, un'istituzione che merita rispetto. Poi aggiunge un'altra cosa velenosissima Juncker, dice: se la Commissione avesse dato ascolto ai burocrati, il giudizio sul bilancio italiano sarebbe stato molto diverso, cioè proprio da una frecciata e un colpo proprio a Renzi pazzesco. Cioè, come dire, vi abbiamo già graziato. Esatto, vi abbiamo graziato. Poi il presidente del Senato Grasso, sulla vicenda Cucchi, che dice: chissà parli. Ma non ha senso anche questa cosa qua. Che vuol dire? Ci sono due... avvalora, questo è importante invece. La seconda carica dello Stato con queste dichiarazioni non è avvalora. Va contro un giudizio. No, ci sono due giudizi della magistratura. Avvalora da seconda carica dello Stato la teoria dell'omertà. La tesi dell'avvocato Anselmo. Esatto. Dell'avvocato Anselmo. Ma non è importante, di una vergogna. Un processo in cui è dimostrato molti non hanno parlato. È una vergogna che la seconda carica dello Stato è una vergogna. Ma non essere così ipocrita. Non è questione, uno può dire voglio la verità, va benissimo, d'accordo. La verità però non è la verità in assoluto, è la verità giudiziaria, come sei in questo caso che si persegue. Beh, non la verità tutti i processi, generale, benissimo. No? Tu che sei un esperto di queste cose. No, esperto di niente, no. È una banalità come per tutti i processi. Allora, no? Allora, Grasso, quando dice chissà deve parlare, sostiene che c'è qualcuno che è stato zitto e che sa, chiaro? E dunque dice che i processi non valgono una mazza. Questo dice il presidente, ex magistrato, peraltro. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Allora, Carlo da Roma. Buonasera. Dimmi. Intanto complimenti per la trasmissione. Dimmi, Carlo, vai. Arguta. Vorrei però capire quando è che finisce lo show e parla seriamente. Perché tu puoi parlare, intanto parla tu. Parenzo, intanto parla tu, Carlo. E parlo io, fammi parlare. E parla. Quando il professor Parenzo e ci dice e difende la razza Rom e gli zingari. La razza. È errore. Sarà, primo errore. Ma parenzo mio, io vorrei farti questa domanda. No, no, amico mio, la razza, esiste la razza umana, quindi scusami se sono okay, puntiglioso persone, su questo. Le persone, hai ragione, la razza rom, mamma allora, mia. Chiamiamole così. Vabbè, allora? Zinger. Vorrei sapere, secondo te, che continui a difenderle a spada tratta, quale sarebbe la loro utilità al mondo d'oggi? Perché io vengo da una città come Roma, un quartiere benestante e facoltoso, che può essere Casal Palocco come i Parioli, e siamo invasi da zingari che cercano nei secchioni tutti i giorni a tutte le ore. Porelli, mancherebbe altro, però stanno tutti i giorni a rompere i coglioni. Tu che cosa faresti con questi rom? Aspetta, parliamo degli zingari che stanno a stazione Termini e che sono andati su tutti gli speciali dei TG, che rompono il cazzo alle vecchiette, le scippano, gli chiedono i soldi alle macchinette. Io vorrei capire da Parenzo, io la soluzione ce l'ho e ve la do se volete. No, dacela, dacela, fammi sentire. Parenzo, che cazzo, allora, la parola, io ce l'ho io. 6 mesi di anticipo. Il 1 gennaio 2015 esce questo comunicato. Il 30 giugno 2015, chi è ancora zingaro, e si farà un bel elenco di come è uno zingaro e come è una persona non zingara, verrà preso, chiuso in una stanza, e se sei al 30 giugno ancora uno zingaro, ti uso per fare sperimentazione scientifica. Punto. Tanto sei inutile. Prendete il numero di questo, per cortesia. Vabbè, Carlo, questa è una roba nazista, però, nazistoide. Prendete il numero di telefono. Tu stai dicendo, di non è che prendi esistono numero, le persone numero. Utili o inutili. Che vuol dire? Perché devo prendere è il numero? Pazzesco. Scusa, perché devo prendere il numero? Prendi, ho detto prendi il numero. Ma che ci fa? Ce l'abbiamo già il numero, ma che ci facciamo col numero? Che ci facciamo? Lo diamo alla. Ma chi? Ma vuoi chiamare sempre? Sei fissato? Vuoi chiamare la polizia per tutti? Ma uno che dice alla radio, sulla radio 24, una delle più importanti radio italiane, la più importante radio italiana, nell'ora di punta alle 20:29:26, telefona Placido dicendo che deve usare gli zingari per fare degli esperimenti scientifici perché sono inutili, amico, ma di più, uno, cosa deve fare per indignare? Non lo so, lo chiedo, Carlo, a te. Allora, di più, non cosa ho capito, tu faresti fare? Le sperimentazioni quando, uno, in che momento, che deve fare, in che occasione? Allora. Ma come allora? È argomento pure questo. Roba, pazzi, dai. Continuo o no? Dai, vai, continui, sì, certo. Continui, prendiamo il numero. Aspetta, intanto. Aspetta, aspetta. Io non sono contro le persone a prescindere. No, no, assolutamente. Parenzo mio, non lo sono. Ma scusa, a te fa piacere che ti chiedano l'elemosina tutti i giorni? Vabbè, ma secondo te ognuno deve fare qualcosa. Se non dimostrano di fare qualcosa... Ma questo signore qua mi... Esistono anche i disoccupati, serve, però. Esistono chiama? I disoccupati. Giustamente, eh. Mi scrivono qui. A che cazzo serve questo che chiama? A lei cosa a che serve? Serve, Carlo? A niente. No, lei, nella società che serve lei? Nella società che serve? Ma allora scusa, potrei porre la stessa domanda a Parenzo. Ma no, noi serviamo a intrattenere la nostra famiglia. Sì, alla famiglia, chi ci vuol bene, e a queste due ore a intrattenere chi ci ascolta. Serviamo a questo, poi sai. Mi spieghi l'utilità degli zingari? Vabbè, ma quelli saranno utili a se stessi, alla loro famiglia. C'è il diritto a essere zingari, somaro. Sì, quello è vero, però c'è anche il diritto, c'è anche il diritto, c'è anche il diritto a non essere, a non essere infastiditi, eh. C'è anche il diritto a essere zingari. C'è il diritto a non essere infastiditi. Ma sì, ma sì, c'è, c'è. Se se viene aggredita alla stazione Termini, come la devo prendere? D'accordo, benissimo, quello vale per tutto. Denunciare tutto, ovvio. Dentro casa, molto probabilmente da zingari che entrano dentro casa, si trovano sotto al letto. Comunque tu hai una ricetta, l'hai detta prima, la tua ricetta è questa: se tu dimostri di fare qualcosa, bene, altrimenti rinchiuso. Ovviamente la mia è una provocazione. Beh, allora, tu l'hai detto, sperimentazione, però... utilizzarli per la sperimentazione, che poi non si fa la sperimentazione sugli uomini, ti vorrei sottolineare. Almeno, per quello che avrei uno in più per provare dei farmaci, però detto ci abbiamo il numero di questo. Fermo. Allora ragazzi, prima di presentarvi un ospite, Parenzo, che è già stato da noi, ma ultimamente è stato protagonista di uno scontro pazzesco con un filosofo. No, con un filosofo. Filosofo, poi bisogna vedere filosofo fino a che punto. Comunque è filosofo perché insegna. Ospite spesso di un programma televisivo che si chiama La Gabbia. Voglio farti sentire qualche cosina su Alessandra Moretti. Non è che ce l'abbiamo con Alessandra Moretti, sì, per carità. Però a me il paraculismo all'ennesima potenza, se da un certo punto di vista mi affascina, perché una persona paracula, furba, mi affascina, come no, uno è sempre affascinato dal male, se vogliamo, no? Beh, tu sì, io sono affascinato dal male, non c'è dubbio, però in questo caso c'è veramente il è è il prototipo del paraculismo in politica nei tempi recentissimi. Una che è passata, come la signora Moretti, adesso candidata in Veneto, da Bersani, da essere una pasdaran di Bersani, anti-renziana, fino alla, a Renzi, candidata prima in Parlamento in Italia, in quota Bersani, poi al Parlamento europeo, è passata con Renzi, Parlamento europeo capolista, ha preso oltre 200.000 voti e adesso, dopo pochi mesi, dopo aver detto che l'Europa era fondamentale, si sposta a essere candidato in Veneto per il Partito Democratico. Beh, amici miei, amici miei. Partiamo da quello che pensava di Renzi. Una volta da noi alla Zanzara, quando veniva, disse che Bersani era più bello, assomigliava a Cary Grant. Te lo ricordi? Cary Grant, come aveva detto. Poi diceva che Renzi era maschilista. Maschilista. Noi siamo Bersani, un po' cialtroni. Ogni tanto facciamo queste... tutta la vita. Bersani più bello di Renzi. Ma, certo. No, ma non si può dire una ma cosa del genere. Ma avete visto Bersani da giovane? Era un. Era. Un possibile attore. Ma ha detto giusto, era. Un possibile attore. A me Renzi non piace per nulla. Possibile attore addirittura. Bersani. Sì, poteva essere, aveva questo capello fluente nero. Capello fluente. Ma sì, non l'ha vista? Cary Grant. A chi assomiglia un po'? Un po' Cary Grant. Un po' Cary Grant, sì. Renzi è un maschilista. Ah, ma sì. Ah, perché? Sì, sì, glielo ho anche detto. Per esempio? Ma no, perché è una battuta. No, no. Perché lui ama essere lui, insomma, al centro della, dell'attenzione. Chi è? Questo sta rispondendo al telefono. Avete sentito cosa pensava? Sì, sono di... in diretta. Chi è? Chi è? Chi sta, con chi stai parlando? Chi è? Oh, grande avvocato, ciao. Aspetta, sono in diretta, non vorrei che... L'avvocato un attimo, Anselmo, Cruciani. Chi è? L'avvocato Anselmo, chi è? Sono in diretta in trasmissione, ma non ti sentono, avvocato. Ma chi è? L'avvocato Anselmo, chi è? No, no. Chi è? Sì, alle 9 mi chiami. Ciao, Enzo, caro. Ma chi è Enzo? Ciao, chi? ciao. Fatti i cazzi tuoi. Ma chi è Enzo? Avvocato Enzo, eccetera. Ero al telefono, un avvocato che mi ha chiamato. Che vuoi, Cruciani? Ma sei sempre con gli avvocati. Sei sempre con gli avvocati. Mamma purtroppo mia. Gli avvocati. Ah, beh, ma Parenzo non facesse lo stronzo, perché adesso mi ha rotto i coglioni pure lui. Ecco, allora abbiamo con noi Valentina Nappi. Buonasera, buonasera. Ciao, come stai? Tutto bene. Senti, Parenzo, tu sai cosa significa la parola squirtare? Scusami? Squirtare, squirtare. Sai cosa allora, significa, Parenzo? Ti dico solo questo. Sono le 20:42. Appunto, sono le 20:41. Ieri il presidente Squinzi ha fatto questo incontro però a Brescia. Casualmente Squinzi e Squirt ha una certa vicinanza. Beh, amico mio, però io non l'ho fatto apposta, scusami. Non c'entra malato. Nulla. No, tu voglio sottolineare. No, tu voglio sottolineare che non allora, c'entra ieri nulla. Ieri si è messo in macchina dopo quell'incontro lì. E a un certo punto dice, vediamo come danno conto. Vediamo come danno conto dell'incontro di con Renzi sulla mia radio. Apre ieri alle 19:40 e c'era uno di questi radioascoltatori che parlava di uccelli, fave, robe. Dice, ma no, forse veramente c'era... è un ascoltatore. Non mi ricordo però cosa a noi c'era. Non interessa adesso forse quello che ascolta. Forse c'è stato un errore. Oggi quello... ritorna in macchina e dice, beh, forse è stato un errore. Ieri c'era un problema nella sintonizzazione. Vediamo stasera che cosa fanno. Alle 20:42 sulla mia radio, dice. C'è Cruciani che chiede alla signora presidente, come dice, magari parleranno di Juncker, forse. Sì, forse qualche no? secondo, e invece sì. si trovano la signora Nappi, che per carità, grandissimo rispetto per le attività che svolge sul suo corpo e anche su quello degli altri, anche su quello però degli altri. Su io la domanda era questa, Valentina, scusami, che l'uomo è ignorante, Parenzo. No, ma non è... allora sai che cosa vuol dire la parola? Più che altro c'è un atteggiamento poco curioso verso la cosa, esatto. No, bravo, ma poco curioso, amica mia, ma sì. Abbiamo fatto vabbè, è un problema suo, esatto, è un problema suo, ma sono interessante. No, ma allora sai che cosa significa squirting, Parenzo? Che cosa vuol dire? Sì, cosa vuol dire? Tecnicamente. Sai, conosci, ma lo conosci da poco o da un po' di tempo già? Mi sono informato perché so adesso, che è una pratica negli ultimi diffusa. Mesi, no, diffusa no, bisogna averlo naturale, credo, signora Nappi, o sbaglio? Ragazzi, ma voi quando trombate che cosa guardate? Scusatemi. Beh, io guardo un sacco di cose, dipende dalla situazione. Cioè, è una cosa. Libro, magari. No, libro no, è soggettivamente. No. Anche se potrebbe essere una cosa, una fantasia, quella del libro, però no, assolutamente. Leggere, sì, va bene. Ma agli uomini piace moltissimo questa cosa. A me piace moltissimo. Parenzo, a te piace questa quando una donna pratica questa. Non mi sono mai interrogato. Non ti sei mai interrogato su questa interrogato cosa. Qua. Ma male, questo. Perché non ti interroghi su questa cosa? Ma come mangiare? Vabbè, sì, butto in bocca. Cioè, non mi sono interrogato pubblicamente. No, ma ha ragione diciamo. La Nappi. Quando dice, sì. Ha ragione Valentina Nappi, quando dice, sì. Beh, tu è come mangiare, butti in bocca quello che c'è senza guardare, no? Ma io guardo quel che metto in bocca, diciamo. Vabbè, però allora, io non trombi no. Esatto, quello che invece guardi, professoressa. Ma siccome la professoressa Nappi dice giustamente, Beh, in, questi, certo. in questo ambito della materia, oggettivamente ambito, guardi, è così sicuro. E siccome in questo caso lei dice che il sesso, sì, bisogna parlare del sesso come si parla, sì, del, certo, cibo, come si parla di qualunque cosa, ci mancherebbe altro, senza pregiudizi e soprattutto senza tabù, ma soprattutto senza quelle false ipocrisie. Cioè, lei dice fare sesso è come hai detto più volte, Valentina, è come prendere un caffè, no? Com'è? Quello che intendevo dire in realtà, purtroppo è stata adattata, è che bisognerebbe arrivare a far sesso così con la stessa facilità con cui si prenderebbe un caffè con un amico. Cioè, vuoi prenderti un caffè? No, ni, ma sì, prendiamolo lo stesso. Capito? Capito, Parenzo? Perché sì, no, ma io siccome sono... si avvicina molto alla mia filosofia, ovviamente ci deve essere sempre un minimo di, no, di adrenalina, no, Valentina? Poi tu lo fai per mestiere, per cui un altro discorso. L'adrenalina potrebbe venirti dopo. Beh, come dopo? Tu dopo per averlo fatto, dici tu, no? Per averlo fatto. Fai meglio, magari hai mal di testa, lo fai e dopo ti senti meglio. Beh, tu usi anche questa tecnica per il mal di testa? Beh, questa siamo al top qui, siamo al top. Cioè, ragazzi, c'è una lezione fondamentale dal professor Nappi: se avete mal di testa, trombate, giusto? Sì, ho masturbato. Beh, potrebbe essere una cosa, però è una cosa Davide, no, però questi qua, siccome sul mal di testa è un rimedio antico. Non lo dico soltanto io. No, ma è vero, lo dice anche i medici. Ma veramente, dicono. Adesso ragazzi, mi state prendendo per il culo, no, se, ma o siete saputo, se una mal di testa si dice, ti può passare, anzi è un bel rimedio. Cioè, facendo sesso e trombando ti può passare il mal di testa. Non sai niente di nozioni di chimica, di, come dire, di corpo umano. Ah, perché rilascia endorfine, sì, uno rilascia endorfine, due, il cuore batte forte, quindi c'è una circolazione del sangue che aumenta. Ma io non lo sapevo, che ne so io, dai, su. Tu sei fordista nel senso, cioè lo fai materiale. Comunque andiamo avanti con Vabbè, la signora Nappi. No, perché la signora Nappi è ultimamente è stata protagonista di uno scontro con Diego, sì, Fusaro. Diego Fusaro. Vabbè, un po' sì, dai, un po'. Il filosofo, quello della gabbia. Sì, perché ha detto filosofo marxista. C'è stato tutto signora uno scontro, marxista, adesso è difficile riassumere, no? Però la signora Nappi è molto pro e filocapitalista, giusto? No, allora non sono anticapitalista, che è no, filocapitalista. Capitalista, ho detto filocapitalista. No, non sono filocapitalista, non sono anticapitalista. È una cosa diversa. E invece Fusaro è anticapitalista, marxista. Come si fa a essere marxista? No, marxista no. Beh, marxista lui dice no. Di no. Vabbè, comunque non entriamo nei dettagli. No, lui infatti non dice di essere marxista. Comunque, alla fine di questo ragionamento di altissimo livello della signora Nappi, che uno si stupisce, ma la signora Nappi scrive delle cose su Micromega, ha un blog, parla di politica, parla di un sacco di cose. Certo. Alla fine di questo ragionamento ha detto: beh, insomma, sarebbe da squirtarti in bocca una cosa di questo tipo. Sì, squirtare in faccia. In faccia, adesso in faccia. Non è un'offesa se qualcuno mi dice. Ti sborro in faccia, io lo prendo come un complimento, è un invito, ecco, alla questo dialettica. È un invito alla dialettica, cioè se qualcuno ti dice una frase così, tu dici, cioè, tu non dici no. Vorrei sborrarti in faccia, io rispondo grazie. Tu rispondi grazie. Vedi i punti di vista, no, David. Adesso, vedi. Stata, sì. Se io lo dico io in giro, se tu lo dici in giro, se tu adesso vai, macchina, se tu adesso vai, adesso, vai giù, no? Se tu adesso vai giù, scendi, sì, no? Scendi, sì, e dici, sì, a qualcuno: vorrei quello che ha detto la signora Nappi, sì, prima, sì, probabilmente sì, ti becchi uno schiaffo. Beh, questo è probabile. È una, diciamo. chi si offende è una borghesuccia, dici tu? Sì. È una borghesuccia. Sì. Vabbè, ma vedi come scardina anche il concetto di classi sociali. Ma è fenomenale, io dico, da questo punto di vista è fenomenale, ci vorrebbe una lezione al giorno, dopo ci cacciano, dopo 10 giorni, dopo una lezione a settimana, al giorno. Un po' stasera la mia radio cosa fa? Interessante fare qualche lezioncina sessuale seria, senza battutine. No, ma qui no, hai ragione. Le battutine non le stiamo facendo. Se volete qualche volta mi invitate in studio, se mi dedicate un po' di tempo lo facciamo. Sì, però le battute dopo ci cacciano, però siamo tolti la soddisfazione di fare una cosa diversa. Sì, esatto, facciamoci Parenzo, facciamoci cacciare così, invitandoci a Nappi Studio. Beh, stai meraviglioso. Vi prendo, vediamo se riesco a farvi entrare nel porno. Beh, adesso ma questo che guadagnate più in radio, no? Guardi, ma cara, sì, non so se sono però degno di oggettivamente, questo. Oggettivamente non ci interessa, però vabbè, possiamo vedere naturalmente. Però adesso passivamente mi chiedono, no? In che senso, passivamente, in che senso? Ah, cioè, come, no, nel senso che ti stendi, sì, e sì, fai tutto l'attrice. Vabbè, ma quello sì, è come giocare. E ti pagano pure. E ti pagano, dici? E ti pagano pure. Però certo, poco, diciamo. Col può essere un secondo lavoro, è forse. È divertente questo. Quando mi trattano come se fossi, ecco, un escort, no? Perché sì, anche chi scopa con me sul set viene pagato. tanto quanto vengo pagata io, a volte anche di più. Sì. Quindi. Ma tu la, la fai l'escort ogni tanto? No, non fa per me, devo dire quando. Ma quante offerte c'hai? Cioè, c'è qualcuno che ti dice ti darei 3.000 euro, 5.000 euro per stare con te? Sì, sì, ma non lo farei mai perché no, cadrei in depressione. Perché purtroppo la maggior parte delle persone, a parte che non ho tempo, ma poi la maggior parte delle persone ha un modo di far, non vuole farsi scopare o fare sesso con te, ma vuole trombarti. Perché tu simbolicamente sei la pornostar. Lo so, così. E quindi se, così come in generale spesso le escort sono il simbolo della figa e non la figa. E quello sì, che no, stai certo, pagando certo. Non è l'esperienza dell'atto sessuale come, sì, sì. Come andare al ristorante, ovvero mangio meglio di quello che mangerei a casa di mia nonna o almeno qualcosa di diverso, ma è semplicemente finalmente arrivo alla figa. Arrivo alla nappi, in realtà. Arrivo alla nappi. Maschile. Sì, certo, non c'è dubbio. Senti, però perché non sopporti Sgarbi? Questa è una curiosità che ho sempre avuto. Perché pensi che Sgarbi sia un... Una volta hai detto in un'intervista che... Beh, lui non piace l'arte contemporanea. Ma come non piace l'arte contemporanea? Alcune cose. Non gli piacerà, diciamo, al massimo. Non gli piacerà come un altro tipo di arte. No, ma c'è un altro elemento. Tu hai raccontato bene il perché non ti piace Sgarbi. Non mi ricordo. Non mi occupo di cioè, Sgarbi. Quando vedi Sgarbi o quando senti Sgarbi cambi, che fai? Non, sei disinteressato totalmente a... Di recente sì, anche perché sto seguendo meno la TV, cioè non ce l'ho da 12 anni, però adesso la E del governo Renzi che pensi? Che sia che è solo un chiacchierone oppure... No, oppure... Vediamo. È un po' presto per... È un po' presto. Speriamo bene. Quello che mi sarebbe piaciuto chiedere a Fusaro... Lo so, però non vuole. Che devi fare? Ma adesso ci riproviamo domani. Ma allora, ha rifiutato? Non voleva, non... si è fatto così, non voleva. Non ti preoccupare, adesso domani ritentiamo. Domani ritentiamo. Senti, molti mi chiedono, ma quella roba là che tu vuoi fare a Fusaro, lo squirting, è naturale oppure può essere provocato in maniera artificiale? Cioè uno che non gli viene naturale, uno che non gli viene naturale, una donna che non gli viene naturale, lo può, si può allenare per questo? No? Naturale in che senso? Che viene naturalmente? Non viene uguale. Esatto, sì, cioè che non, non, che non, non, so che non produci altro. Non produci liquido esterno, insomma. Sì, quindi non so che in realtà potrebbe anche accadere che lo produci lo stesso, però vabbè, non so. Allora, la faccenda dello squirt è un pochettino complessa. È complessa, quello che io so, allora, quello che vedo dalla maggior parte dei porno. Tutti finti. Sì, la maggior parte è piscio. Tra l'altro. Però dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere. Ma aspetta, non lo sto dicendo apposta perché questa musichetta significa che dobbiamo chiudere. Ma siccome vogliamo pizzicare Fusaro, ne riparleremo. Parenzo, tu dici meno male? No, a me in realtà io starei ore. A domani, 18:30, ciao. Sì. Ottima trasmissione, sempre la visione. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.